9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, buon martedì, oggi è 22 maggio, Santa Rita d'Acacia, quindi un augurio a tutte le rite in ascolto. Il tema della trasmissione è un bilancio, una riflessione all'indomani di questo secondo turno nel ballottaggio delle amministrative, che conferma, ma rilancia, approfondisce, estende l'impatto molto significativo, molto energico che il primo turno aveva già manifestato, sia in termini di ampliamento del basso tasso di partecipazione al voto. Abbiamo una lunghissima serie di sindaci espressi da una minoranza assoluta di partecipanti al voto, perché è così che avviene da Sesto San Giovanni a Palermo, a Trapani, a Alessandra, a Taranto, a Monza, a Lucca, a Belluno. Stiamo tutti e sempre parlando di sindaci eletti al ballottaggio con una astensione superiore al 50%. Questo è il primo dato per quello che riguarda la partecipazione. Ma venendo poi ai dati politici rilevanti, la mia lettura particolare è quella della fine della pagina voltata in maniera definitiva sul meccanismo centrodestra-centrosinistra, che per 18 anni quasi ha innervato la Seconda Repubblica. E la fine di questo meccanismo si vede in una evaporazione vera del PDL da una parte e della Lega per due fenomeni distinti e diversi, molto forte, e questa evaporazione si traduce in una crisi politica profondissima del centrodestra, identitaria da una parte. Dall'altra parte è vero che c'è una difficoltà molto forte del PD nel processo di guida politica di quello che avviene nella sinistra, perché vicende come quella dell'esplosione dei consensi a Palermo di Orlando o dell'elezione a Genova del sindaco Doria non fanno altro che confermare ed estendere il fenomeno dei candidati sconfitti dal PD, indicati dal PD e sconfitti alle primarie, e dell'elezione di sindaci che non esprimono affatto il partito, cioè quel fenomeno che avevamo visto potentemente prendere piedi a Napoli, lo avevamo visto a Cagliari, lo avevamo visto a Milano con Pisapia. In realtà Fassino è l'unica eccezione nelle grandi città italiane, riuscito a diventare sindaco a Torino, di un leader espresso dal PD e che riesce a diventare sindaco. Altrove il segnale è esattamente all'opposto. Ma detto tutto questo, la crisi del centrosinistra è una crisi non di evaporazione del voto, ma è una crisi, per così dire, politica, perché il segnale che viene dal basso è di candidati che esprimono un antagonismo molto più accentuato della leadership identificata come confusionaria ed elitista della linea di continuità PD-DS-PDS. E però a sinistra ci sono alternative, per così dire, non solo alternative alla francese, cioè quello che è evidente è che la crisi della Seconda Repubblica non sfocia in un esito con un Monsieur Hollande, espressione di un forte partito socialista che raccoglie l'eredità dei liberal conservatori che hanno deluso le aspettative e in 18 anni fatto l'esatto opposto di quello che ogni volta avevano promesso, cioè liberalizzazioni, privatizzazioni, meno Stato, meno tasse. Da noi quel partito socialista non c'è. C'è un magma molto più confusionario, confuso e indistinto. Vedremo se la differenza non la farà Repubblica ancora una volta, perché il rischio è molto forte, visto che è lei nella Seconda Repubblica e questo gruppo editoriale che ha nominato e ucciso tutte le diverse leadership alternatesi con una velocità tumultuosa alla guida del PD. Resta il fatto che le due crisi hanno un segno molto diverso. Quello del centrodestra si vede nel fatto che il PDL nelle regioni settentrionali amministrava 3 comuni su 4 e oggi non arriva a 1 su 5, cioè la sconfitta che si vede nel nord, in Lombardia, ma fino a Toscana, Lucca, Camaiore, eccetera, è una sconfitta epocale, è la fine di una lunga epoca per il centrodestra. Per il centrosinistra c'è una crisi politica. A tutto questo, e insieme al risultato delle basse partecipazioni, si aggiunge poi quello su cui tutti vanno a titolare, cioè l'esplosione del successo del Movimento 5 Stelle a Parma e del Movimento di Grillo. Io non ne sono stupito, l'avevo già detto più volte, si vedranno poi le contraddizioni programmatiche, li vedremo al governo, ma il punto non è quello. Il punto è che questo movimento, per le modalità con cui nasce, cresce, attecchisce dal basso e con poche migliaia di euro, rappresenta l'espressione che nell'offerta politica attuale la gente schifata e stanca dei miliardi del finanziamento della politica, dello Stato obeso che alza la spesa, alza le tasse e rinvia a chiacchiere ogni sua modifica, mentre per il resto chiede subito alla gente di pagare, e rappresenta nell'offerta politica attuale l'unica vera alternativa all'astensione. Quindi il suo successo, dal mio punto di vista, è una novità fondata su cose più che comprensibili. Allora, questo è, d'ora in poi mi taccio, è quello che penso, io che non sono un politologo e che naturalmente tendo sempre a sopravvalutare l'effetto economico che c'è tra le tasche, la testa della gente, la pancia, il cuore della gente schifata. Però chiediamo i nostri esperti di capire meglio. Ecco, ce n'era uno collegato ma è caduta la linea in questo momento, aspetta, mentre me lo ricollegano intanto vi presento Andrea Giuricin, che è un giornalista, che è un autore del libro Dai Cappi alle Scopa, 20 anni della Lega, perché nella crisi del centrodestra c'è anche il fatto naturalmente che la Lega ha preso una scopola dovunque, 7 parti era il ballottaggio, in 7 parti è stata sconfitta. Buongiorno e grazie Andrea Giuricin. Buongiorno. Allora, Roberto Dalimonte si è riaggiunto nel collegamento, insegna sistema politico italiano alla LUIS di Roma, editorialista del Sole 24 Ore. E, dal suo punto di vista, Dalimonte, oltre a ringraziarla e darle il buongiorno, il segno più evidente di questo ballottaggio qual è? Ma io ho sentito il suo intervento, Giannino, e l'ho trovato molto puntuale. Lei ha detto tutte le cose giuste. E quindi, però, se dovessi sintetizzare, io parlerei di una nuova classe dirigente, cioè il risultato di queste elezioni, primo turno e secondo turno, secondo me denota chiaramente questa domanda fortissima di una nuova classe dirigente, è una domanda che si esprime in forme diverse, sia con l'astensione che col voto grillo, ma questo è il punto essenziale a mio avviso. Senta Giannino, io ho sentito con grande interesse la sua presentazione. Sull'unico punto mi permetto di sentire da lei, il Partito Socialista Francese è un partito che ha meno del 30% dei voti, non è molto più grande del nostro PD, parliamo del 27-28% del Partito Socialista Francese. La differenza tra l'Italia e la Francia non è il Partito Socialista, forte o debole, sono le istituzioni forti. Il Partito Socialista in Francia riesce a governare perché sono delle istituzioni diverse dalle nostre, c'è un'elezione diretta e un doppio turno. In Francia trasformano un partito medio, tutto sommato anche piuttosto, cioè appunto un partito medio e non molto forte, in un partito di governo capace di governare. Questa è la differenza fondamentale. Touché. No, touché, è ovvio che la sua è giusto che la sua osservazione abbia un peso notevole. Il problema è che, diciamo, all'interno della tradizione socialista, come in tutti i partiti socialisti di storia plurisecolare, c'è una certa abitudine, seppur in una lotta a coltello tra classi dirigenti, perché l'abbiamo visto, dopo Mitterrand è stata una lotta a coltello, Segolè non è passato, è passato il suo ex marito, eccetera eccetera, ma c'è, diciamo, una tendenza a esercitare un controllo dei processi politici nel resto della centrosinistra. Sicuramente è agevolata ed è facilitata dalla legge elettorale a doppio turno che ci richiamava il professor Dalimonte, ma che ha una forza propria, per così dire, un po' diversa rispetto a questa consustanziale debolezza che mi pare una delle caratteristiche della lunga storia delle evoluzioni post-PC e delle anime pluridentitarie, di questa conflittuale presenza di anime che tutte le volte litigano tra di loro, eccetera eccetera eccetera. Però questa è una mia osservazione personale, quello che conta effettivamente effettivamente che l'impatto che rappresenta il sistema istituzionale e il sistema elettorale del doppio turno e del sistema presidenziale in Francia consente, anche con forze non troppo superiori come sono quelle del Partito Socialista, ma superiori a quelle del PD attuale, da quello che si vede alle urne, di esercitare un ruolo di questo tipo. Secondo lei, Dalimonte, la mazzata, l'espressione di questa nuova classe dirigente richiesta nei diversi segnali che l'elettorato manda e che lei unisce in questa formula, è una lezione così chiara che il centrodestra italiano dopo 18 anni la capisce, oppure si intestardisce pensando che siccome non c'era Berlusconi in campo basta che torni per confermare lo stesso copione? Non so, che impressione ha lei? Secondo me Berlusconi l'ha capita, quelli che lo circondano forse no, ma Berlusconi l'ha capita. Berlusconi è uno che queste cose le capisce prima degli altri, e ora bisogna vedere se riuscirà, così come fece nel 94, a imporre la sua soluzione, perché non sarà facile. Parlo del 93-94 perché ci sono molte analogie tra la situazione di oggi e quella del 93-94. Anche allora c'era una domanda di nuovo, di una nuova classe dirigente, che è stata poi soddisfatta dalla Lega e da Berlusconi. Ecco, questo è un altro punto importante, Giannino. La rappresentanza del Nord, il Nord, siamo tornati per quanto riguarda il Nord al 93-94, un Nord senza rappresentanza, e perché il PD, come giustamente ha fatto rilevare lei, il PD non è riuscito ad allargare la sua base di consensi, soprattutto al Nord, vince per defiance, per default dell'avversario, perché c'ha una sua base di elettori affezionati, storici, che porta a votare. E quando la destra è divisa, disorientata, delusa, arrabbiata, succede che poi vince con i suoi voti pur essendo minoranza. E quindi resta il problema gravissimo e grandissimo della rappresentanza del Nord. Da questo punto di vista, secondo lei, è questa vittoria per defiance, perché ovviamente il Pierluigi Bersani si ferma al riepilogo generale del passaggio dei comuni maggiori che sono andati al voto da centrodestra a centrosinistra, e è molto forte, perché diciamo il centrodestra ne guidava 92 e passa a 34, centrosinistra a 55 e passa a 85. Questi conti li prendo dallo stesso sito Cise-Luis, che elabora dati per conto ed è guidato dal professor Roberto Dalimonte. Ma invece, se ci soffermiamo nel Nord, come Dalimonte diceva, la vittoria centrosinistra, la vittoria per defiance, nel senso che la gente non ha ancora fatto capire con chiarezza che cosa preferisce o vorrebbe che si sostituisse al ruolo tradizionalmente esercitato nella Seconda Repubblica dal centrodestra nel Nord, ed è in attesa di un'ulteriore modifica dell'offerta elettorale, secondo lei, oppure no? Cioè, come dovrebbe le classi dirigenti nuove, come dovrebbero leggerlo questa cosa? Dovrebbero creare un'offerta politica che ancora non c'è, se sono liberali e pensano alle coordinate classiche dell'elettore del Nord, deluso da Berlusconi perché non ha diminuito le tasse, ma le ha alzate, non ha diminuito la spesa, ma l'ha alzata, non ha liberalizzato, non ha privatizzato, sta mettendo le imprese in ginocchio, lo vediamo nelle lettere che ci arrivano. Io sto continuando a parlare semplicemente perché nel frattempo è caduta la linea col professor Dalimonte, e quindi sto tentando di vedere se riusciamo, mentre era per strada, perché si sentiva dallo sfondo il rumore del traffico mentre ci stava ascoltando, e sto vedendo, è di nuovo in linea il professor Dalimonte. Chiedevo se rispetto a questo elettorato, le cui attese tradite sono innanzitutto nell'economia, nelle liberalizzazioni, nelle privatizzazioni, che cosa deve pensare la classe dirigente? A dargli un'offerta politica che ancora non c'era neanche a questa tornata? O secondo lei il Movimento 5 Stelle incrocia quel tipo di elettorato anche? Beh, in parte il Movimento, abbiamo visto almeno i dati sui flussi che abbiamo fatto al primo turno, perché sono quelli che da questo punto di vista, per rispondere alla sua domanda, contano di più, ci dice che in parte sì. Poi vediamo che a Parma il Movimento 5 Stelle, Pizzarotti, è stato votato massicciamente dall'elettorato di centrodestra. Lei ha citato i dati del CISE, se vede sul sito, ma li ho pubblicati anche sui giornali questa mattina, è impressionante la quantità di voti che Pizzarotti ha preso da elettori che avevano votato Ubaldi, Ghiretti, Buzzi, cioè candidati del centrodestra. Quindi sì, il Movimento 5 Stelle intercetta una parte, ma solo una parte limitata. La gran parte di questi elettori è senza rappresentanza. Lei pensi a Como, io ora sono in viaggio e quindi non ho davanti a me i dati, mi pare che a Como al secondo turno abbia votato poco più del 40% dei, degli aventi diritto. E il centro-sinistra, il candidato del centro-sinistra del PD ha vinto con 70% dei voti, cioè sono dati irrealistici, capisci? Cioè uno può vincere, sì, il PD ha vinto, ma ha vinto in un contesto molto particolare. Questi distacchi sono ingannevoli, capisci? Va bene, allora io ringrazio intanto il professor Dalle Monte, perché arrivo a una prima conclusione che mi interessa porre con grande energia ai miei ascoltatori. Cara classe dirigente, soprattutto se sei nella piccola, piccolissima impresa che non regge, artigiani, commercianti, ma anche lavoratori dipendenti, che in tanti di voi avete confidato nel Berlusconi, nel PDL, e per 18 anni una volta sì, una volta no, lo avete fatto vincere, anche se vi deludeva una volta sì, una volta no. E beh, ci dovete proprio pensare, perché questa volta al turno amministrativo, se ha ragione il professor Dalle Monte, io credo di sì, bisogna che vi diate da fare, perché in poche, diciamo, settimane, un paio di mesi, bisogna che nasca un'offerta politica in cui gente nuova, con facce credibili, profili coerenti tra quello che dicono, competenti, devono sapere già, non devono studiare ulteriormente come si fa a cambiare lo Stato. E beh, o li fate mettere in campo, li mettete in condizioni di risorse finanziarie con soldi trasparenti, non che si devono appalti pubblici o a catene che si perdono all'estero, di creare un'offerta politica per dire non c'entriamo niente con quelli di prima, anzi hanno fatto malissimo quelli di prima, perché la condanna del sistema Berlusconi-Tremonti da una parte, delle ruberie della Lega, deve essere totale, incondizionata, non bisogna avere niente a che fare con quella continuità di quella roba lì, e questa gente si prepara a prendersi un bel po' di fischi, ma a dire noi vogliamo ripartire con un programma fatto di taglio alla spesa improduttiva in maniera non recessiva, per abbattere il debito pubblico con le privatizzazioni dei mattoni di Stato, per identificare 6 punti di PIL, per fare diminuita pressione fiscale in 3 anni, cominciando da subito, retrocedendo subito all'Italia legale tutto quello che si porta a casa dalla lotta all'evasione, e mettete in condizioni un soggetto politico nuovo di crescere, di raccogliere forse qualche adesione, qualche pattuglia di persone credibili per il prossimo futuro, oppure rassegnatevi, perché il centrodestra attuale non ha alcuna chance di battersi se non preleggere un pugno di diciamo così, persone, donne e uomini di fiducia di Berlusconi per difendere la sua azienda, perché di questo si tratta. Auguri all'amica Santanchè se si candida a questo ruolo, auguri, come ovvio, ai giornali di Berlusconi, che dovranno battersi per questo spacciandola per la grande piattaforma liberale italiana. Ma una cosa è sicura: per gente che voglia credere ancora, dopo 18 anni di umiliazioni e di promesse non mantenute, di cacchi propri proposti in realtà al posto delle promesse elettorali, per chi è liberale o c'è poco tempo per creare questo soggetto, oppure il messaggio elettorale è chiaro: tutti a casa. Il Movimento 5 Stelle, che secondo me ha delle buone ragioni per vincere, perché per quanto le sue siano su politica, mercato, incongruenze programmatiche, ripeto, la coerenza rispetto ai miliardi rubati è una coerenza che parla da sola, ma per il resto il campo liberale resta assolutamente non coperto. Vedremo, Montezemolo lo farà, come ovvio immagino che l'avvocato Luca Cordero di Montezemolo troverà questo turno elettorale grande conforto a organizzare la sua discesa in campo alla fine, dopo molti anni promessi. A ciascuno la libera opinione sul fatto che Montezemolo possa davvero incarnare quell'anima tagliente liberal-liberista di cui oggi manca la rappresentanza nel quadro dell'offerta politica italiana, mentre invece la sinistra resta in campo, vince con minore partecipazioni, e di una sinistra che diventa ancora più antagonista, che diventa populista, movimentista, orlandiana per la quarta volta di Luca Orlando. E certo, è un bel capolavoro di autosconfitta per il PD, in questo credo che Luca Orlando abbia ragione. E per gli amici leghisti c'è molto da riflettere su dove possa portare il culto di una persona che non era più in grado di rendersi conto neanche di che cosa avveniva intorno a sé e intorno ai propri figli. Allora, è sicuramente un piccolo segnale, piccolo perché il presidente del Consiglio Mario Monti stamattina si è recato a Sant'Agostino, uno dei comuni più colpiti dal sisma in Emilia, e a Sant'Agostino, tra le diverse decine di cittadini presenti, si è levato per la prima volta nei suoi riguardi in pubblico, dai, che Presidente del Consiglio, qualche grido di protesta, basta vergogna, potevi stare a casa, ladro, ladro, ladro. Ed è la prima volta che segni di protesta fiscale vengono indirizzati al Presidente del Consiglio del governo di emergenza, al netto del fatto che, come riportano tutte le agenzie, si trattava di sfollati colpiti dal sisma, è comunque un segnale. Per la prima volta a monte arrivano espressioni di rabbia e malcontento popolare, perché è identificato come un uomo dei vecchi partiti, anche lui come uno che ha detto alla gente rimetteremo in piedi in Italia, e invece prende, prende, prende e non paga i suoi debiti e non liquida ovviamente i crediti fiscali alle imprese. Questo punto, che è uno dei punti più forti della campagna di ascolto di Disperati, Mike Occhio, Radio24.it, che abbiamo condotto in queste settimane, continua a farci arrivare copiosissimi segni di protesta assoluta, ed è una delle cose che sicuramente contribuiscono di più a questa evaporazione del voto di centrodestra, scandalosamente deluso dal comportamento fancazzista e concentrato sui cavoli propri del centrodestra padronale, perché di questo padronale, nel senso proprio, hanno fatto gli interessi di una persona della sua azienda. Questo dopo 18 anni è evidente a chiunque. Se vogliono continuare a dire che la colpa è sempre di qualcun altro, come hanno fatto in tanti anni, gli elettori gli hanno voltato le spalle. Diversa forse, o non troppo diversa, non lo so, sentiamo l'opinione di Andrea Giuricin, che ha scritto appunto questo libro Dai Cappi alle Scope, 20 anni di Lega, e l'espressione che viene dall'elettorato leghista nei confronti del partito di Umberto Bossi in transizione verso Maroni, 7 ballottaggi, 7 sconfitte. Questo è il risultato. Che impressione hai avuto, Andrea, da questo secondo turno per quello che riguarda la Lega e il suo elettorato? Beh, la Lega esce fortemente sconfitta da queste elezioni. 7-0 sembra un risultato della selezione della Padania contro una qualunque altra squadra. Detto questa battuta, direi che la Lega deve ripensare a rinascere, perché le sue promesse degli anni 90 non sono mai state mantenute. Nel momento in cui è arrivato al governo ha dimostrato di saper fare come tutti gli altri partiti, e anche per questo si può dire che la crisi attuale dei partiti odierni e la crisi della Lega sia molto simile, perché in realtà la Lega ormai è considerato come un partito come tutti gli altri. Oh, da questo punto di vista, chi sperava o è stato proteso nel cogliere qualche segnale di maggior tenuta, perché Maroni e chi intorno a Maroni aveva espresso, anche prima del precipitare sulla vicenda Belsito della crisi della Lega, aveva espresso dei segni evidenti della necessità di cambiare marcia, cambiare leadership. Credo che rimanga un po' deluso da questi risultati elettorali, perché questi segni di maggior tenuta, cioè di incoraggiamento a una transizione interna che in realtà era già cominciata, a differenza di quanto non si vede nel PDL, dove tutto è ingessato, bloccato, in realtà non mi sembra che ci siano. Tu che cosa pensi? Che a questo punto, per come hai seguito il fenomeno del crescere intorno a Maroni, del consenso per una svolta, in una parte, diciamo, prima nascosta, poi sempre più evidente di una parte del movimento della Lega, troverà maggior incoraggiamento e maggior determinazione, maggiore rapidità nel tirare una riga rispetto a Bossi e al suo circolo da questo dato elettorale, o al contrario un dato elettorale che dice: avete visto, senza il nostro vecchio leader in prima fila noi andiamo semplicemente a scomparire? Per come tu conosci i meccanismi, diciamo, identitari di fedeltà alla Lega, che ne hanno costituito un tratto dominante, ci sono parlamentari che ancora adesso, come l'onorevole Giosis, dicono: Bossi con i nostri soldi può fare quello che vuole, che è una roba veramente di considerare non politica, sono dichiarazioni di appartenenti a sette carismatiche, queste, per così dire. Il reverendo Moon, sì, ha i suoi adepti che dicono una cosa simile. Ma dal punto di vista di Andrea Giuricin, invece, incoraggia è una discontinuità ancora più forte, oppure la scoraggia dicendo è tutto inutile? Allora, ci può essere un effetto doppio, diciamo. Da un certo punto comunque incoraggia questa svolta, però bisogna anche ricordarsi che Maroni, come tutti i nuovi, diciamo, della Lega, in realtà sono stati al governo per una decina d'anni, cioè quella decina d'anni, gli ultimi 10 anni in cui l'Italia è rimasta praticamente ferma, l'Italia è rimasta bloccata, ha aumentato il proprio debito, ha aumentato il deficit, siamo ancora fermi, non si arriverà mai al pareggio probabilmente, le tasse ormai siamo a un livello superiore a quello svedese e la spesa pubblica America, come tu ricordi benissimo sul Chicago Blog, supera ormai realmente il 60%, strozzando di fatto famiglie ed imprese. Quindi di fatto non vedo questo grande cambiamento, nonostante sia inevitabile per la Lega stessa, cioè ormai una continuazione di Bossi sembra totalmente improbabile, perché visti tutti gli scandali che sono usciti è davvero difficile che possa continuare, diciamo, la The Family, continuare la propria tradizione. Dal punto di vista delle classi dirigenti, di cui parlava all'inizio Roberto Dalimonte dicendo c'è una grande fame di classe dirigente e dirigente nuova, io ho ricevuto un messaggio adesso da un ascoltatore che mi ha fatto riflettere, lo giro a Giuricin per chiedere anche a lui la sua opinione. Questo ascoltatore ci dice: caro Giannino, sappia che a Parma tutti i tra virgolette poteri forti, compresi gli industriali che avevano sostenuto le giunte di Ubaldi e poi di Vignali, cioè la curia, le cooperative sociali eccetera eccetera eccetera, in realtà si sono tutte unite al candidato di sinistra, ma la realtà è che ha vinto il Movimento 5 Stelle, malgrado tutto il sostegno della Parma istituzionale al meno peggio, cioè al candidato della sinistra, e ha vinto invece Pizzarotti. La realtà è che questi poteri forti non spostano più un voto. L'idea di classe dirigente di cui parlava Dalimonte, sostiene questo ascoltatore, è un'idea che va un po' rivista. Le classi dirigenti non sono quelle delle vecchie rappresentanze, neanche quelle delle imprese, neanche quelle delle banche. Poi, se ci sono professionisti, imprenditori affermati eccetera eccetera fuori dalle vecchie catene di rappresentanza, può essere però che quelli gli stia più simpatico il Movimento 5 Stelle che altri. E qualche cosa che si vede anche, secondo lei, Giuricini, nel distacco che nel centro nord è sempre più evidente tra le persone che hanno una propria credibilità eccetera rispetto a PDL da una parte e la Lega dall'altra, cioè c'è una frattura pressoché incolmabile tra le classi dirigenti del nord, quelle produttive, e le due articolazioni tradizionali del centro-destra e la Seconda Repubblica, secondo lei? È quasi incolmabile, visto l'esperienza gli ultimi vent'anni, diciamo dalla nascita della Lega di governo fino ad oggi, dal 94 ad oggi, comunque la Lega in parte rappresentava questi interessi dei piccoli imprenditori, come anche il PDL, comunque Forza Italia prima e poi il Popolo della Libertà dopo, ha sempre rappresentato questi piccoli imprenditori, ma oggi c'è... Non c'è più questa rappresentanza, non c'è più questa rappresentanza, perché evidentemente, come diceva anche lei, le promesse fatte ai fatti poi non sono arrivati i fatti, e quindi è inevitabile che ci sia questo distaccamento, ed è anche inevitabile che a questo punto vinca quello che è un po' il voto di protesta, cioè Pizzarotti giustamente è coerente e va a prendere il 60% nonostante gli appoggi di qualunque potere forte sul candidato di centrosinistra, che era visto come il vecchio rappresentante della politica, presidente della provincia, che oggi stesso ha ammesso non lascerò la presidenza della provincia perché quello è il mio ruolo. Si capisce benissimo il voto di protesta che c'è stato a Parma, così come probabilmente ci sarà nelle prossime elezioni generali, molto probabilmente. Allora, io ringrazio anche Andrea Giuricin. Nel frattempo alcuni quotidiani italiani riportano oggi un accordo sui debiti dello Stato, dicendo alle imprese 30 miliardi. In questo momento sto leggendo il titolo della Stampa, il giornale di Torino guidato da Mario Calabresi, e sto leggendo l'articolo a pagina 31 della Stampa, dicendo che sarà possibile scontare fino al 70% del dovuto. Si annuncia che ieri c'è stata la quadratura del cerchio grazie al superamento dell'ultimo scoglio, c'è la richiesta di introdurre la compensazione da parte delle aziende di dimensioni più piccole per incassare i crediti, e ipotesi su cui il giornalista, che è Francesco Semprini della Stampa, sostiene che il governo all'inizio non era d'accordo e poi è stato d'accordo. Allora, io devo dirvi la verità, oggi stiamo parlando d'altro, di elezioni, non voglio confondere tutti i temi. Io non, sottolineo, non, e lo dico per la terza volta, non credo affatto che i decreti a cui il governo sta mettendo mano siano risolutivi di questa partita, che riguarda 100 miliardi di euro, cioè più di 7 punti di PIL che lo Stato ladro deve alle imprese e che potrebbero rappresentare una svolta di liquidità con effetti finanziari piramidali, di liberazione di risorse oggi completamente bloccate. Lo Stato di fatto continua e continuerà a non pagare. Non ho capito per quale ragione il governo continui a far finta di non sentire di fronte, no, alla protesta, alla proposta dell'umile stupido che sono io, ma di tutti coloro che, a cominciare da tutte le associazioni di impresa, Confindustria in prima fila, hanno indicato in Cassa Depositi e Prestiti la garanzia da attivare per un meccanismo che continui a vedere esposta la pubblica amministrazione, non le imprese di fronte alle banche, e a pagare, ci vuole la liquidità, non le promesse di questi complicati decreti che evitano allo Stato di pagare, che no, non onorano le sue promesse e che lo fanno ancora una volta restare irrimediabilmente ladro. Se la stampa, non quella di Torino, ma i giornali, non riescono a capire che questi decreti non sono la soluzione, ma li spacciano ai loro lettori, ascoltatori, eccetera, come la soluzione del problema, allora, come sempre, bisogna che l'informazione si assuma le sue responsabilità. Io me le assumo. So che non piace al governo, non piace alle imprese pubbliche controllate dal governo che io usi questi toni, ma 100 miliardi di furto alla continuità dell'impresa italiana mentre aumenta il ritmo di fallimenti e la gente continua a uccidersi, noi, come vedete, non ne parliamo meno, perché abbiamo avuto chiaramente l'invito a non esagerare, però sta di fatto che poi anche ieri uno senza lavoro ha preso i bambini, si è buttato di sotto e così via. Dire che di fronte a questo lo Stato ladro ha risolto il problema significa essere servi dello Stato ladro, ed è una cosa che io non farò mai fino a che non vedrò lo Stato che mette mano al portafoglio che ha e allo strumento per farlo senza fare deficit e debito aggiuntivo in sede europea, perché io sono uno rigoroso, si chiama Cassa Depositi e Prestiti, la Cassa Depositi e Prestiti ha 185 miliardi di liquidità, ha 247 miliardi di attivi, se volete ve li elenco, eccetera eccetera, perché sono una persona che poi studia, non sono un chiacchierone a vambora, che il governo si volti dall'altra parte facendo finta di non sentirci, e la testimonianza purtroppo che anche il governo dei tecnici, che non è responsabile delle condizioni in cui ha trovato l'Italia, è irrimediabilmente prigioniero della continuità di strutture tecnico-amministrative che contano più della politica, che hanno comandato sotto la destra, che hanno comandato sotto la sinistra e che comandano anche il governo dei tecnici. Mi dispiace, questa è la mia irriducibile opinione, irriducibile fino al punto in cui non vedrò che uno Stato mette mano al portafoglio, chiede scusa in ginocchio e paga i suoi debiti. Altrimenti non ha la pretesa per dire che noi li dobbiamo pagare con la puntualità che egli nega a se stesso, che egli assicura a se stesso di non poter assicurare con l'impunità garantita dai tribunali a proprio vantaggio. Questo è autoritarismo, questo è un regime economicamente inefficiente, di cui nasce la protesta della gente, più che sacrosanta. Perdonatemi, di fronte a un fenomeno di questo tipo, il Movimento 5 Stelle e Grillo è persino troppo poco. So che preferireste che io facessi il filo sistema che dice attenti al populismo, ma è persino troppo poco. È persino gente troppo composta, quella del Movimento 5 Stelle. La versione di Oscar. Ed ecco che ripartono i Doors. Domani ci abbiamo anche un Eurovertice europeo, nel frattempo siamo molto indietro sulla possibilità che a questo Eurovertice davvero si metta al centro dell'agenda ciò che, in assenza del quale probabilmente ci avviamo a un'estate terribile. Sto dicendo una quota di copertura dei debiti sovrani di ogni membro dell'euroarea uguale per tutti, coperta da strumenti cooperativi comuni, cioè l'idea che 40-60% del iniziale del debito pubblico di ogni paese sia coperto da obbligazioni comunitarie. Guardate, faremo una puntata per parlarne, io non sono... Conta poco che io sia critico di questa proposta. Il problema è che in assenza di una cosa di queste proporzioni i mercati scommettono sul fatto che l'euro esplode, ed esplode con fallimenti a catena, dopo la Grecia, le banche spagnole, e poi viene il nostro turno. Speriamo che la classe politica europea capisca che dopo 2 anni e mezzo di errori a questo punto o ha un rimedio radicale, rispetto al quale sarei scettico anch'io, ma in assenza di quello bisogna sapere che quello che ci aspetta è un'estate d'inferno, cari ragazzi. Va bene, ne parliamo nei prossimi giorni, intanto vediamo alcuni telefonate dei nostri ascoltatori, come hanno preso e come interpretano invece i dati di questo ballottaggio amministrativo. Cominciamo con Franco, che ci chiama proprio da Parma, la città presa dal Movimento 5 Stelle. Prego Franco. Sì, buongiorno dottora. Niente, io voglio dire che i partiti sono fatti da uomini, e a Parma la disfatta del PDL ha un nome e cognome, un certo Giuseppe Villani, ras, diciamo così, della zona. Praticamente lui ha dominato, ha creato tutta questa situazione, ha cercato di pilotare il sindaco in certe operazioni, diciamo così, e praticamente dal 28% che era il PDL è passato al 4,5%. Ecco, questi uomini poi devono rispondere di quello che fanno. Roma era stata avvisata, tutti erano stati avvisati che c'era questa situazione, però nessuno ha preso provvedimenti e siamo arrivati a questo punto. Eh beh, in effetti quando si passa dal 28 al 4% vuol dire che la città si espressa chiaramente. Grazie a Franco, sentiamo Michele che ci chiama da Milano. Prego Michele. Buongiorno dottor Giannino, grazie per lo spazio. Volevo solo intervenire a proposito di quello che ha detto lei poco fa sull'offerta, che è un'ipotetico nuova offerta politica che il centrodestra dovrebbe dare, e sulle caratteristiche che dovrebbe avere. Una delle più importanti, se non forse la più importante per farsi accettare dagli elettori di centrodestra, tra i quali io sono, è quella di dover dire immediatamente e chiaramente, poi farlo seguire con atti precisi e concreti, di voler eliminare i privilegi. Ok, vi chiediamo lacrime e sangue, però togliamo anche i privilegi, a tutti i livelli e subito, a cominciare dai parlamentari, dalle province e tutto il resto, ma anche ai livelli più bassi, come le lobby dei farmacisti, le lobby dei notai, e anche al punto di vista dell'impiego pubblico, dove molti pubblici impiegati, che Striscia la Notizia ce ne dà notizia ogni sera, ci sono degli impiegati assolutamente privilegiati, possono fare due o tre lavori non facendo nulla sul loro posto di lavoro. Ma questo dovrebbe essere seguito da atti concreti subito. Grazie. Michele, sì, la coerenza è quella che nel centrodestra non si è vista e gli elettori la puniscono. Quindi vedremo se adesso chi ha votato e chi ha la possibilità di organizzare un soggetto, un politico, un'offerta politica diversa del centrodestra capirà questi risultati e farà seguire a questo risultato non altra attesa che si pronunci Berlusconi, che si vede, ma semplicemente dei fatti. Io sono molto scettico. Forse bisogna organizzarsi con pochi soldi dal basso e farlo noi, che volete che vi dica. Allora, abbiamo collegato con noi in questa fine trasmissione Nicola Piepoli, che è il presidente dell'Istituto Piepoli, che di tutti i sondaggisti, i lettori attraverso rilevamenti demoscopici di quello che c'è nella testa degli italiani, era uno di quelli che più coraggiosamente si era esposto ed ha visto confermati tutte le cose che, per chi lo ha sentito in televisione nelle settimane precedenti, faceva chiaramente intendere che gli italiani a propria volta esprimevano nelle risposte ai sondaggi che gli sottoponeva. E quindi da questo punto di vista è il confermato, per così dire, Piepoli, da questo turno elettorale. È un po' così o no? Grazie. Soprattutto sono stato confermato ieri nel fatto che noi abbiamo correttamente diagnosticato nel giro di 20 minuti la vittoria di chi effettivamente ha vinto in tre grandi città, tra cui Parma. Quindi sono al mio posto, quello del buon ricercatore che fa il buon lavoro in servizio della gente. Allora Piepoli, se dovessi fare un paragone tra la frattura che emerge ed è espressa dal comportamento degli italiani, tra estensione, evaporazione al centrodestra, vittoria al Movimento 5 Stelle, e quella del 92-93, questa linea di faglia di oggi è come quella del 93? È più profonda? È inutile fare paragoni? Qual è la sua opinione? Beh, i paragoni si fanno sempre, direttore, e si fanno sempre anche in funzione del fatto che abbiamo tutte e due vissuto il 92 e il 93 e tutte e due viviamo l'oggi, quindi siamo dei contemporanei di questo evento, e questo evento a un certo momento è piuttosto sconvolgente, cioè nei preelettorali ad esempio noi avevamo che a Parma vinceva lievemente il movimento a 5 Stelle, parlo di preelettorali recenti di 3 giorni fa, di 4 giorni fa. E poi dopo c'è stato la slavina 5 Stelle che ha preso il 60% dei voti. Ora, quindi il movimento è molto vasto nella mente della gente ed è immediato. Il problema nostro, semmai, o se vuoi la soluzione, è quella che noi viviamo nel tempo reale, in una società a tempo reale. In una società a tempo reale, come un istituto di ricerca dà risultati in tempo reale in 25 minuti, così la gente in tempo reale vota per l'uno o per l'altro dei candidati, decidendo davanti al seggio. E quindi il problema è come cogliere questo tipo di follia collettiva che in questo momento pervade specialmente l'area del centrodestra. Però anche il centro-sinistra non è molto lontano, certo, dalla follia. No, no, è chiaro, l'illusione di aver vinto e così via. Ma è una crisi di fronte alla quale la capacità di interpretare quello, il comportamento, gli strumenti di interpretazione del comportamento degli italiani del centrodestra è sensibilmente diversa o è piatta come reazione, come quella che aveva la DC alla fine del 93-94, secondo te? Cioè, il centrodestra attuale ha una capacità di capire il cambio di marcia, di discontinuità assoluta di cui c'è bisogno se vuole continuare a vivere in continuità rispetto a come è stato in questi 18 anni, è un po', o è un po' come la vecchia DC nell'angolo? Senti, direttore, il problema è che chi è al potere stenta sempre nel capire gli eventi. Perché? Perché al potere. Perché quindi al automaticamente potere. È una forza conservatrice. Nicola Piepoli vi ha detto una delle cose eterne del carattere umano che spiega perché i politici di lungo termine, quando sono troppo attaccati alla sedia, diventano incapaci di capire i fenomeni tellurici sotto i loro piedi. Io ringrazio Nicola Piepoli, do appuntamento a tutti per domani. Oh, guardate che tanta gente dice hai abbandonato Disperati Mai. No, oggi abbiamo parlato di questo, ma le lettere riprendiamo a leggere domani. Continuate a scriverci a disperatimai@radio24.it. Tenete duro, non vi buttate sotto e soprattutto basta con lo Stato ladro.